a pace, quando questo mondo non avrà più una croce. Oh my God. My God. Quando i farisei non avranno più voce, quando la politica sarà piena di luce. Oh my God. Oh my God. Quando la miseria sarà solo un ricordo e la povertà sparirà dal mondo. Oh my God. My God. Quando finiranno di dividere i popoli in nome di un Dio, di una frontiera, di un alibi. Oh my God. Oh my God. Allora forse il sogno si potrà realizzare e non ci sarà più spazio né tempo per i ladri della luce, per gli assassini della pace, ed ogni essere avrà di cui gioire e risplenderà in ogni cuore l'amore fraterno universale, l'amore, l'amore, l'amore. Allora forse il sogno si potrà realizzare e non ci sarà più spazio né tempo per i ladri della luce, per gli assassini della pace, ed ogni essere avrà di cui gioire e risplenderà in ogni cuore l'amore fraterno universale, l'amore, l'amore, l'amore. Quando questa terra troverà la sua pace, quando questo mondo non avrà più una croce. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Quando i farisei non avranno più voce, quando la politica sarà piena di luce. Oh my God.